Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. Con la morte non finisce tutto, come molti dicono invece. Molti sostengono che con la morte finisca veramente tutto. Quando uno è morto, dicono, è morto. Come se non ci fosse, diciamo, un al di là. La Sacra Scrittura dice che l'uomo ha un'anima. Parte del suo essere è costituito dall'anima e l'anima sopravvive alla morte fisica. Con la morte sopraggiunge la fine della vita terrena, il corpo cessa di funzionare, ma l'anima che è all'interno del corpo continua a esistere, a vivere. E vi faccio sapere che la vostra anima, dato che siete senza Dio, senza Cristo, la vostra anima, dato che non è salvata, quando morirete, uscirà dal vostro corpo e scenderà, per andare in un luogo di tormento, che è l'Hades. L'Hades, conosciuto comunemente con il termine di inferno. È un luogo di tormento, dove arde il fuoco. Non è un fuoco allegorico o spirituale, come molti dicono, ma è un vero fuoco. E là la vostra anima sarà tormentata. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, in merito alla sorte, che aspetta coloro che sono senza Dio, senza Cristo nel mondo e che quindi muoiono nei loro peccati. È un luogo orribile l'inferno, è un luogo reale, in questo preciso momento è pieno di anime che soffrono grandi pene perché sono tormentate in mezzo al fuoco. Dunque, non è vero che con la morte finisce tutto. Per colui che è sotto il peccato inizia un tormento terribile, orribile, in un luogo, appunto, di tormento chiamato Hades. Là sono diretti coloro che sono sotto il peccato. E tra quelli che sono sotto il peccato ci siete pure voi. Ma io sono stato chiamato da Dio ad annunziarvi la via della salvezza. E quindi vi annunzio come l'uomo viene salvato. Perché voi avete bisogno di essere salvati, in quanto siete schiavi del peccato. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. Per questo meritate di andare all'inferno. Allora esiste solo una via di salvezza. Una via di salvezza unica. Non esiste un'altra. Perché esiste un unico Salvatore. Gesù Cristo, il Figlio di Dio. In nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Egli è il Figlio di Dio che il Padre nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo, per salvare cioè i peccatori. Quindi dovete sapere che il Dio, che è il creatore di tutte le cose, nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo il suo figliolo per salvare i peccatori. In che maniera? Facendo sì che egli morisse sulla croce per i nostri peccati e risuscitasse il terzo giorno dai morti a cagione della nostra giustificazione. Dunque io vi annunzio che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Lui è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Fu seppellito, risuscitò il terzo giorno dai morti secondo le Scritture e poi apparve. Apparve a Pietro, apparve ai dodici, apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Questo è quello che è avvenuto nella pienezza dei tempi. Quindi, quello che Dio aveva preannunziato ab antico per bocca dei suoi profeti, cioè che il suo Cristo doveva morire, soffrire per i nostri peccati e risuscitare dai morti, il Dio l'ha adempiuto in Gesù. E dunque vi annunzio la buona novella che Gesù è il Cristo. E annunziandovi la buona novella vi esorto a ravvedervi, quindi a cambiare modo di pensare, ad abbandonare i vostri pensieri iniqui e vani e a credere nella buona novella, credendo nella quale sarete salvati dai vostri peccati, sarete perdonati, sarete giustificati e otterrete la vita eterna. Sì, la vita eterna, che è il dono di Dio. E quindi avrete la certezza che quando morirete andrete ad abitare col Signore, perché il Signore vi salverà nel suo regno celeste. Quindi il Signore vi strapperà al fuoco dell'inferno dove siete diretti. Ecco dunque in che maniera l'uomo viene salvato. L'uomo viene salvato per grazia, mediante la fede nella buona novella che vi ho annunziato. Quindi io vi esorto, nel nome del Signore, a ravvedervi e a credere col cuore che Gesù è il Cristo. Credetelo, il Signore avrà misericordia di voi e vi strapperà dal fuoco dell'inferno dove voi siete diretti. Voi non sapete di essere diretti all'inferno, ve l'ho fatto sapere io, perché voi camminate nelle tenebre. Però vedete, vi ho annunziato anche la via della salvezza, la via della salvezza. Dunque, ve lo dico per l'ennesima volta, ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù è il Cristo. E il Signore vi salverà. La salvezza è Dio l'ha provveduta per mezzo di Gesù Cristo, il suo figliolo. Lui è il Salvatore del mondo. Lui è colui che è venuto nel mondo per salvare il mondo. Non c'è un altro Salvatore oltre Lui. Non c'è in nessun altro è la salvezza. La salvezza dunque è in Cristo Gesù, ed è appunto proprio perché è in Cristo Gesù, è per grazia, mediante la fede, affinché nessuno si glori. Chi ha orecchi da udire, oda.